con Andrea Merendelli, direttore artistico, per parlare della 24esima edizione del Teatro di Comunità Tovaglia a Quadri, ad Anghiari, provincia di Arezzo, dal 10 al 19 agosto 2019. Andrea, ben trovato. Bentrovati a voi. Raccontiamo cos'è il Teatro di Comunità. Sì, è un po' un ricoglionimento dal mesordio, l'avete sentito subito perché si fa tarda notte tutte le sere per discutere su quello che raccontiamo e su quello che mangeremo e beveremo a tavola. È un'operazione di piccola civiltà dove gli abitanti di questa parte del centro storico di Anghiari si ritrovano ormai da 25 anni e raccontano una storia dei commensali, a 130 commensali, che ogni sera si siedono a tavola insieme a loro, in una piazzetta vicino e di fronte alle loro case, alle loro finestre. E raccontano storie mentre si mangiano cibi a chilometro zero, preferibilmente biologici, ma che risultano a volte poco digeribili grazie anche agli argomenti e ai problemi, alle criticità di questo territorio che noi mettiamo in scena. Com'era nato tutto? Nasce tutto dall'esigenza un po' di raccontarsi. La Val di Verina è cosiddetta la Valle della Memoria, c'è un archivio diaristico che raccoglie circa 8.000 diari. C'è un'università dell'autobiografia che fa formazione sulla scrittura delle storie di sé, raccoglie storie. Fisiologicamente vanno anche in scena, poi queste storie vengono poi restituite attraverso percorsi teatrali, musicali. Abbiamo costruito progetti, diciamo, intorno anche alla musica contemporanea, indipendente italiana, cioè i pezzi facili, i pezzi che vengono raccontati, diciamo, artisti italiani che si raccontano attraverso le musiche degli altri. Diciamo che è una narrazione globale dove si cerca un po' di tenere insieme tutto questo sistema narrativo. Nel caso di Tovaglia Quadri nasce dall'esigenza di coniugare il cibo insieme alle storie e quindi mettere insieme questi due momenti dove la storia diventa la storia di ieri o la storia recente. Abbiamo trattato argomenti di ogni tipo che erano semi sconosciuti, come il fatto che qui c'era un campo di internamento fascista e badogliano dove sono state rinchiuse migliaia di persone, ne sono morte 200 in soli 9 mesi. Diciamo, episodi anche la ripubblicizzazione del servizio idrico dopo la privatizzazione, i tentativi ora di far tornare l'acqua un po' di proprietà pubblica, insomma, hanno raccontato anche cose scomode e anche quest'anno non ci siamo fatti mancare nulla, in quanto diciamo, siamo andati un po' a toccare un po' i nervi scoperti e la viabilità che rende questa zona così bella e anche così isolata, perché c'è una strada con ponti che crollano, ci sono, insomma, delle vie vecchie e nuove che si stanno un po', come dire, incrociando pericolosamente. Come si svolge ogni giornata? Il pubblico arriva in questo terrazzo naturale, le mura antiche di Anghiari sulla Valle del Tevere, in questo crocevia fra Umbria, Toscana, Marche ed Emilia Romagna, il corno della Toscana che finisce appunto nella Toscana del Nord-Est. Si siede a tavola in questa piazzetta e le cucine di quest'osteria servono una cena in quattro portate e i tempi della cena scandiscono un po' la narrazione. Si sta a tavola per 3 ore, si parla con i propri vicini di quello che va in scena e si condivide appunto la storia oltre che il cibo. Quanti sono gli attori e le attrici? Attori quest'anno sono 16, però mi preme ricordare appunto che tutti quelli che stanno intorno alla cena, che la preparano, la servono e poi la distribuiscono ai commensali fanno parte integrante della narrazione. Diciamo che il tempo, anche quello della musica, degli stornelli toscani, delle canzoni di protesta, che sono un po' il nostro cavallo di battaglia da sempre, vengono appunto, come dire, ridisegnati da cantori, da gente improvvisata che poi alla fine si aggiunge sempre ai nostri attori, al cast fisso che è comunque quest'anno dei 16 elementi, ma oscilla fra i 14, 15, 20 elementi. Il paese come interagisce? Innanzitutto il confronto con quello che si raccoglie durante l'anno. Quest'anno, nello specifico, come forse avrete visto, con questo titolo Via Dotta, ci siamo interrogati un po' sulle strade di un tempo e di quelle di oggi e soprattutto sulla transumanza, questo fenomeno millenario che si è interrotto negli anni 60 e che trasferiva uomini e animali dagli Appennini, qui nostri, fino alla Maremma, che era un po' una terra promessa. Le storie le abbiamo fatte appunto interagire con la comunità perché ci siamo messi a confrontarle con gli anziani, soprattutto, che sono una fonte inesauribile appunto di suggestioni e di informazioni e di notizie. Quindi tutto il patrimonio orale viene in qualche modo riscritto da me e dall'altro coautore Paolo Pennacchini e poi messo a un confronto abbastanza serrato e non sempre facile con quelle che sono, diciamo, le precisazioni e un po' la cronologia, l'aggiustamento della cronologia di chi queste vicende le ha vissute in prima persona. Al di là di questo evento di 10 giorni, com'è l'attività teatrale ad Anghiari? Diciamo che è un luogo vivo da questo punto di vista ormai da tanti anni, noi abbiamo prodotto e coprodotto e coproduciamo, è un centro nazionale per la formazione della danza contemporanea, diretto da una romana, Gerarda Ventura, e che noi con i quali collaboriamo ormai da tempo, con giovani performer e coreografi a cui diamo sostegno, e è un centro di produzione riconosciuto dalla Regione Toscana, una residenza artistica, una delle 33 residenze artistiche della Toscana, ed è un luogo dove si è sempre prodotto storie. L'Università dell'Autobiografia e il Diario sono un po' le nostre spinte, abbiamo vinto un Creative Europe raccontando le storie dei giovani ribelli del 68 e questo spettacolo multilingue lo stiamo portando in giro per l'Italia e credo lo faremo anche adesso di nuovo a Viale Santo Stefano al Festival Diaristico. Abbiamo raccontato storie di giovani balordi, ribelli delle comunità punk della fine degli anni 70, primi anni 80 e quindi diciamo ci sono storie che diciamo dalla civiltà rurale alle suggestioni metropolitane e musicali anche lontane migliaia di chilometri da qua si sono incrociate in questo luogo che per certi versi è un luogo elettivo per creare e abbastanza complesso da viverci. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Io li lascio molto volentieri, pur ahimè dovendo diciamo non illudere troppo chi vorrà venire, perché c'è una lista d'attesa abbastanza lunga e i biglietti sono andati sold out nelle prime ore di prevendita, io lo devo dire per correttezza. Tuttavia capita spesso che la sera ci siano persone o insomma che restituiscono il biglietto perché sono malate oppure si creano diciamo delle situazioni last minute che a volte consentono a qualche fortunato di vederla. Tuttavia ecco, io do il nostro riferimento, la pagina Facebook di Tovaglia Quadri dove scrivere e il sito teatrodianghiari.it dove si possono reperire tutte le informazioni. 24esima edizione del Teatro di Comunità Tovaglia a Quadri, Via Dotta il titolo di quest'anno, ad Anghiari, provincia di Arezzo, dal 10 al 19 agosto 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Andrea Merendelli. Un abbraccio, un in bocca al lupo, ci si vede lì. D'accordo, ciao, ciao.